Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Scudo fiscale, prosegue la seduta alla Camera alle 15, il voto finale. La Dardari, ospite di anno zero, l'ira del popolo delle libertà. Fondo monetario internazionale, la recessione sta finendo, ma la ripresa sarà lenta. A Sumatra si scava tra le macerie degli edifici distrutti dal terremoto. Centinaia i morti. In studio Daniele Biacchessi, è il giorno della votazione finale del decreto anticrisi che contiene lo scudo fiscale, in diretta Andrea Viali. Sì Daniele, dopo il voto di fiducia di ieri su questo decreto che contiene lo scudo fiscale, incombe ora la minaccia della cosiddetta ghigliottina. Il presidente della Camera Fini ha fatto sapere che il via libera definitivo al provvedimento dovrà arrivare entro le 15 di oggi, anche se il dibattito sul testo non sarà concluso, questo per concedere al capo dello Stato napoletano qualche ora per studiare il decreto che, lo ricordiamo, decade sabato. Sarebbe la prima volta che la ghigliottina viene applicata nella storia della Camera dei Deputati e contro questa eventualità stanno protestando le opposizioni. Il Partito Democratico con Soros stamattina ha rivolto un appello a Fini, sentiamolo. Noi chiediamo al Presidente della Camera di consentirci l'uso intero dei 60 giorni possibili per l'esame di questo decreto legge, che è anomalo non solo per il contenuto del condono al suo interno, ma anche per la storia legislativa che ha alle spalle. L'Italia dei Valori, che sta protestando all'esterno di Montecitorio, chiede invece al Capo dello Stato di non firmare il provvedimento, un appello che non preoccupa la maggioranza. Sentiamo Bocchino del Popolo delle Libertà. Noi siamo convinti che il Presidente della Repubblica siglerà il decreto legge che contiene anche lo scudo fiscale. Si tratta di un provvedimento che è stato adottato già da molti paesi e non ha destato lo scandalo che la sinistra vorrebbe inventare in Italia. Sbaglia l'opposizione, peraltro dopo aver eletto Napolitano nella scorsa legislatura, a tirarlo per la giacca e a chiedergli di non controfirmare decreti legge che rispondono perfettamente a quelle che sono le linee portanti della nostra Costituzione. 13, 2 minuti e 49 secondi. Dalle polemiche politiche sullo scudo fiscale passiamo a quelle inerenti alla trasmissione di Santoro Anno Zero. Questa sera ospite Patrizia Daddario, in diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Non accennano a diminuire le polemiche intorno alla RAI. Sullo sfondo le nuove nomine, tra queste quella della Berlinguer alla direzione del TG3. In realtà il dibattito di oggi, come dicevate, da studio è incentrato su Anno Zero, che ospiterà questa sera l'escort barese Patrizia Daddario. La partecipazione della Daddario è comunque ancora in dubbio, cavilli giuridici potrebbero bloccarne la presenza. La direzione di Viale Mazzini starebbe valutando questi risvolti. Chi non sarà sicuramente presente da Santoro sono i rappresentanti del Popolo della Libertà. Berlusconi avrebbe posto il veto, è una vergogna. Avrebbe detto ieri sera il premier ai suoi: non si può accettare che una TV del servizio pubblico inviti in trasmissione una prostituta e le affidi un contraddittorio per gettare fango sul presidente del consiglio. Il portavoce del premier Bonaiuti parla oggi di cialtroneria e comunque spiega: non bisogna fare di Santoro un martire. Altro fronte di polemica, la lista sui programmi Rai redatta da Cicchitto, PDL, su quelli più o meno di sinistra insorge il Partito Democratico, che parla di lista di prescrizione. Infine, nel question time del pomeriggio, il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito risponderà sull'istruttoria avviata dal governo su Anno Zero e sulla convocazione dei vertici RAI. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo. Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita del prodotto interno lordo per il 2010. Per l'Italia le prospettive per la nostra economia migliorano e passano da una previsione del meno 0,1% a una del più 0,2% per il 2010, mentre è confermato un calo del 5,1% per quest'anno. Intanto da Eurostat arrivano dati negativi sullo stato dell'occupazione. Ad agosto nell'Eurozona il tasso di disoccupazione giunge il 9,6%, il massimo degli ultimi 10 anni. La crisi c'è, secondo la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Come noi diciamo sempre, insomma, la crisi non è finita, l'impatto sull'occupazione c'è ancora. Chiaramente questo è un indice europeo, il nostro indice italiano di disoccupazione per il momento è migliore, però insomma continuiamo a dire che la crisi c'è e che è anche interessante vedere che la Francia oggi ha deciso proprio di levare una sorta di IRAP per un valore di 11,6 miliardi di euro a favore delle imprese. Si attende una mossa simile di riduzione fiscale dal nuovo governo della cancelliera Merkel. Quindi insomma il tema della competitività e del supporto alle aziende è un tema che un'Europa all'ordine del giorno certamente lo deve essere anche in Italia. La pagina internazionale è una notizia che stiamo seguendo dalle primissime ore di questa mattina. Ci sono moltissimi morti, moltissimi feriti, si continua a scavare veramente con le mani, le fotografie sono veramente drammatiche, quelle che vediamo da Sumatra, martellata da un terremoto durissimo, e tutto questo avviene a pochissime ore, possiamo dire, il giorno dopo, da un'altra vicenda drammatica avvenuta alle isole Samoa. In studio Cristina Carpinelli. Sì, buongiorno. Sotto una pioggia battente si sta continuando a scavare a Padang per cercare di salvare chi potrebbe essere ancora vivo sotto le macerie. Per ora 529 persone sono morte a causa del violento terremoto di magnitudo 7.6 della scala Richter che ieri ha colpito e distrutto la città di Padang. Padang è una città che ha 900.000 abitanti, si trova nell'isola indonesiana di Sumatra. Questa mattina poi c'è stata un'altra fortissima scossa di 6.8 della Richter, e gli esperti purtroppo prevedono altre scosse di assestamento nel corso dei prossimi giorni. Migliaia, dicevamo, i dispersi, numerose sono le aree in cui ancora non si riesce ad arrivare, per ora non ci sarebbero italiani tra le vittime, lo conferma la Farnesina, ma con la riserva ovviamente che si usa in questi casi. I feriti sono 440, molti, moltissimi sono gravi e vengono curati fuori dagli ospedali che sono crollati. E non ci sarebbero italiani neanche a Samoa, dove, come dicevi tu Daniele, due giorni fa uno tsunami ha ucciso per ora 148 persone e distrutto 70 villaggi. Anche in questo caso mancano molte persone all'appello, le autorità stanno sperando di riuscire a raggiungere oggi alcuni dei paesi, dei villaggi rimasti isolati dopo questo violento tsunami e dopo il terremoto che ha scatenato lo tsunami e su cui non si hanno appunto ancora notizie. Centinaia dispersi, tra loro ci sono anche numerosi britannici, australiani e neozelandesi. Noi questa mattina abbiamo raggiunto una donna, un'italiana che a Samoa si trova da 3 anni, si chiama Daniela Brussani, è originaria di Roma, era proprietaria di un resort che si trovava a pochi chilometri dalla capitale, a Pia, e ci ha raccontato di essere viva per miracolo. Sentiamo. È stata una cosa terribile, perché adesso sto nel capo del villaggio, nel Matai, che è il capo del villaggio. Come stanno reagendo qui? Sì. Qui tutte le case sul mare, che sono delle case samoane, c'è un tetto, un pavimento e dei tagli senza pareti, e loro dormono così, su un tappeto per terra, e li chiamano fale, vuol dire casa appunto, e sono tutte spazzate via. E la gente ha preso qualche cosina che ha potuto salvare con la macchina e adesso vanno in città da qualche parente e si vanno a abitare lì per il momento. Io adesso sono andata nel villaggio accanto al mio, dove praticamente ci sono stati anche dei bambini morti per i problemi, e il villaggio è stato spazzato via e non c'è più nessuno, quindi vedo questi camioncini della Croce Rossa che girano, non so dove vanno. Questa è dunque la pagina dedicata al terremoto di Sumatra e al maremoto, allo tsunami che si è abbattuto in queste ore, in queste ultime ore, sulle isole Samoa. Ora la rassegna stampa araba. Segnali di cedimento di Teheran proprio nel giorno della cruciale riunione di oggi a Ginevra con il gruppo dei 5+1 sul programma nucleare iraniano? A sentire la stampa araba sembra proprio di sì. Secondo il giornale Azaman, molto vicino alla famiglia reale saudita, il ministro degli esteri iraniano Mushar Mottaki si sarebbe recato a Washington per portare una proposta di arricchire l'uranio all'estero e non più in Iran. Se confermata, la proposta di Teheran dovrebbe mettere la parola fine ad una crisi che da molti mesi sta allarmando l'opinione pubblica mondiale. Ufficialmente il capo della diplomazia della Repubblica Islamica, che da una trentina di anni non ha relazioni diplomatiche con gli USA, è a Washington per visitare l'ambasciata del Pakistan che cura gli interessi del suo paese. Ma è proprio di ieri l'annuncio a sorpresa del presidente iraniano Ahmadinejad, che ha proposto che parti terze si occupino di arricchire l'uranio destinato alle sue centrali. Nadif Al-Tahali, GR24 e Sole 24 Ore. Si vota domani in Irlanda il secondo referendum in poco più di un anno sul Trattato di Lisbona, quello che riforma l'Europa. Tra i maggiori attivisti per il sì figura l'ex presidente dell'Europarlamento Pat Cox, irlandese, che guida il movimento Ireland for Europe, la più grossa organizzazione pro trattato di Lisbona. Il nostro inviato Sergio Nava lo ha incontrato e intervistato a Dublino. E a Cox ha chiesto se non veda un certo disincanto della sua gente, del suo popolo verso l'Europa. Lo ricordo che un recente sondaggio dell'Irish Times, il più importante quotidiano di Dublino, ha visto più che raddoppiare, cioè dall'8 al 19%, i cosiddetti euroscettici. E soprattutto ha chiesto Nava quali scenari prevede per l'Unione Europea nel caso di un'altra vittoria del no a Dublino. The converse of the statistics you quoted is that the overwhelming majority of Irish people remain hugely favorable towards the European project. È vero ciò che dice, ma è pur vero che la stragrande maggioranza degli irlandesi resta ampiamente favorevole all'Europa e ciò rappresenta una buona ancora. Non vedo un disincanto. Beh, stiamo piuttosto risentendo di una certa fisiologica stanchezza nel trattare questi temi. Io ho più di 50 anni e ho combattuto nella mia vita numerose campagne sull'Europa per l'ingresso nella CE nel 72, nell'88 per l'atto unico europeo, nel 92 per Maastricht, nel 96 per Amsterdam, mentre in questa decade ho già combattuto due campagne per il Trattato di Nizza e altre due per quello di Lisbona. Può quindi capire come la gente si chieda il perché di tutto ciò. Sa, è come se io, poniamo, avessi sposato mia moglie nel 72 e da allora ogni tanto dovessi ripetere pubblicamente la nostra promessa di matrimonio. È un po' quello che è successo all'Irlanda negli ultimi decenni. Il referendum è qualcosa di difficile da interpretare. Per quanto riguarda l'eventualità di un no, qualcosa che non desidero neppure contemplare, penso che per l'Unione Europea ciò rappresenterebbe la perdita di un momento significativo e decisivo. Si tradurrebbe nel fallimento della capacità collettiva di partnership dei 27 paesi di far passare una riforma modesta, ancorché necessaria, per il nostro futuro comune. Una sconfitta per i nostri valori, i nostri interessi e per il desiderio di leadership che vorremmo esercitare sulla scena mondiale. In secondo luogo, è evidente a tutti che in Gran Bretagna si terrà l'anno prossimo un'elezione. È probabile che a vincerla saranno i conservatori di David Cameron, i quali, se il Trattato di Lisbona non fosse stato ancora ratificato, punteranno a un loro referendum contro Lisbona con l'obiettivo di rinegoziare gli impegni di Londra con l'Europa. Io non voglio che il mio paese faciliti il primo atto di disintegrazione dell'Unione Europea. Non è nell'interesse né dell'Irlanda né dell'Europa. I do not think it is in my country's interest. I do not think it is in Europe's interest. Alle 13:17 minuti su Radio 24 riprende il flusso dell'informazione. Nella prima parte abbiamo parlato di scudo fiscale con il voto finale alle 15 con Patrizia Daddario, ospite questa sera di Anno Zero, con le previsioni del Fondo Monetario Internazionale che dice la recessione sta finendo ma la ripresa sarà lenta e con il drammatico bilancio del terremoto di Sumatra. Stiamo parlando di centinaia e centinaia di morti oltre allo tsunami che si è abbattuto sulle isole Samoa. In questa seconda parte lo spazio alla cronaca, allo spettacolo, allo sport come sempre. Più chiarezza e più soldi a disposizione, quanto ha chiesto oggi il WWF al governo per combattere e risolvere l'emergenza delle navi del veleno. Esplosa di nuovo dopo il ritrovamento una settimana fa al largo delle coste calabresi della nave Kunski, una nave fatta colare a picco con il suo carico di rifiuti tossici e radioattivi. Il primo caso risale alla fine dell'89. Il presidente del WWF Stefano Leoni. Non c'è stata ancora una volontà complessiva di perseguire i responsabili. Quindi una connivenza fra Stato... Una connivenza fra una parte deviata di alcuni rappresentanti evidentemente delle istituzioni. Come passare quindi dalla fase delle dichiarazioni di intenti a quella più operativa che voi sembrate chiedere? Noi abbiamo inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, in cui chiediamo di operare subito uno stanziamento per proseguire nell'attività di ricerca, eventualmente anche quella di bonifica e di messa in sicurezza. Le indagini delle procure riguardano principalmente la Regione Calabria? Le indagini sono andate anche in altre procure, non solamente calabrese. Qual è stato l'esito di queste inchieste? Per ora devo dire che non c'è stato un grande successo. Alcune forze economiche timorose del danno economico che poteva aggiungere hanno cercato di abbassare la tensione e anche di non sostenere sin da subito una efficace azione di contrasto. L'intervista era di Federico Maselli. La squadra mobile di Milano indaga su attentati, minacce e intimidazioni contro Frediano Manzi, è il presidente di SOS Racket e Usura, un'associazione che nelle scorse settimane ha denunciato il racket delle occupazioni abusive di case alla periferia di Milano, documentando il tutto con una serie di video in rete. Contro uno dei suoi negozi sono stati sparati 5 colpi di pistola. È stato lasciato un biglietto con la scritta: questo è solo un avvertimento, la prossima volta tocca a te e alla tua famiglia. E un'auto pirata ha tentato di investire una sua dipendente. Maria Luisa Pezzali ha intervistato Frediano Manzi. Noi da quando abbiamo denunciato la presenza della criminalità organizzata in moltissimi quartieri di Milano, è successo che ovviamente sono stato additato da questi noti pluripregiudicati che tuttora vivono diciamo in questi quartieri come l'unico responsabile di tutto, insomma, questo macello. Sono stato oggetto di insulti e minacce gravi anche fatte davanti a polizia, carabinieri e giornali, televisioni, insomma, e questo va avanti da oltre un mese. Teme per se stesso e per la sua famiglia? Sicuramente il fatto di ieri è un fatto molto grave che mi fa temere soprattutto per la mia famiglia. Io mi auguro che questi episodi criminali cessino con un'azione determinante dell'autorità giudiziaria, ma soprattutto della politica che ha causato questo incancrenirsi del problema della criminalità organizzata che da 30 anni vive nei quartieri di Milano, cioè creando dei piccoli scampia, dei piccoli zen, dei piccoli brancaccio, perché le persone per bene che abitano in questi quartieri hanno la necessità di vedere le istituzioni che le devono rassicurare e hanno il diritto di vivere in maniera dignitosa e non oggetto e ostaggi di questi pluripregiudicati. Quello che noi abbiamo dimostrato è una cosa che tutti sapevano. Siamo arrivati al sondaggio di Radio 24. Sarà anche un genio del cinema, un artista che ha regalato emozioni a milioni di spettatori coi suoi film, ma se ha sbagliato deve pagare. La solidarietà che il mondo del cinema ha concesso a Roman Polanski, in attesa di estradizione negli Stati Uniti per lo stupro commesso ai danni di una tredicenne nel lontano 1977, non piace ai nostri ascoltatori, che l'hanno bocciata nel sondaggio di oggi con l'82% di voti. Si tratta di una solidarietà sbagliata. Non ha firmato l'appello per la liberazione di Polanski Mario Monicelli, ma dice: è come se lo avessi fatto. La prescrizione esiste in tutti i reati, non si sa perché questo di Polanski non può dopo 30 anni cadere in prescrizione. Ma io non l'ho firmato perché nessuno me l'ha chiesto, non lo sapevo nemmeno che c'era, se no l'avrei firmato. Sì, l'avrei firmato, sì. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30. Per votare basta un click su radio24.it o ilsole24ore.com. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Stop a Tutti Pazzi per la Tele, lo show di Antonella Clerici su Rai 1. E pistolpati, mamma, non ci sono più denari. Me voglio i cappotti con la coperta militare. Bambole, non c'è una lira. Era un varietà Rai del 1977, ma nel 2009 alla Rai mancano i soldi anche per i varietà, apparrebbe. La decisione era nell'aria da giorni. Due show nel palinsesto di Rai 1 hanno deluso agli esordi. Tutti Pazzi per la Tele di Antonella Clerici e Da Nord a Sud e Ho Detto Tutto di Vincenzo Salemme. Ma per un misero 14% alla seconda puntata, la mannaia si è abbattuta sulla Clerici, con tante grazie e auguri per Sanremo. Come verrà sostituita? Probabilmente con una più economica fiction. Bisogna tornare indietro di 15 anni, annuncia il direttore generale Mauro Masi. Le previsioni parlano di un buco di 2 210 milioni di euro nel prossimo anno e una voragine di 600 milioni da qui al 2012. Per la prima volta negli introiti pubblicitari Mediaset ha sorpassato la RAI. Nel 2008 il fatturato RAI è sceso dello 0,7% e quello di Mediaset Italia al contrario lievitato del 9%, merito degli incassi della Pay TV, opzione strategica alla quale la RAI ha sostanzialmente rinunciato, come ha rinunciato al contratto che legava i canali di RAI Sat a Sky, meno 50 milioni annui. Certo, la RAI ha il canone che rappresenta più del 50% dei ricavi, ma al di là delle iniziative di boicottaggio, il tasso di evasione presunto è già del 28%. Insomma, altro che tutti pazzi per la tele. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Architetti, urbanisti, filosofi, artisti, scrittori, registi e scienziati sono tutti riuniti a convegno sabato 3 ottobre a Roma, alla Casa dell'Architettura. Hanno voluto così aderire al singolare non-stop di interventi per la neonata Festa dell'Architettura di Roma, che avrà come comune denominatore il futuro della città. Amedeo Sciattarella, presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, intervistato da Diana Fracchia. La Festa dell'Architettura nasce da un'esigenza molto forte, che è quella di divulgare i valori di una cultura come quella dell'architettura, che rappresenta forse uno degli elementi più importanti della nostra identità nazionale. Non è un caso che tutta l'industria del turismo si fonda sul turismo di architettura, sul turismo delle grandi città. L'architettura quindi rappresenta per il passato sicuramente un patrimonio incredibile e credo che questo sia un valore condiviso dalla comunità. In realtà invece non si accorge che esiste un altro patrimonio, in parte espresso ma molto spesso non espresso, che è il patrimonio invece della contemporaneità. Altri paesi hanno costruito sui temi dell'architettura contemporanea un'intera struttura che produce ricchezza e produce turismo, e c'è una grande condivisione di questi obiettivi. Ecco, noi facciamo la Festa dell'Architettura per parlare di questi temi e soprattutto per parlare alla gente, per aiutarli a capire e aiutarli a riconquistare quello che io ritengo che sia un diritto di tutti, quello di vivere in città che abbiano una dimensione umana e abbiano una qualità della vita che non è quella che c'è adesso, di cui siamo tutti scontenti. In chiusura al calcio, riflettori puntati sulla crisi del Milan, KO ieri sera in Champions League a San Siro contro lo Zurigo. Quel gol, calcio d'angolo tirato così basso, primo pallo, prendi un gol dopo 8 minuti, sicuramente un momento già che abbiamo bisogno di certezze, e quel gol sicuramente ci ha messo in difficoltà. Hai visto mai che proprio il colpo di tacco dello sconosciuto, fino a ieri, finlandese dello Zurigo Tiininen, non sia il punto di volta della stagione milanista? La panchina di Leonardo infatti traballa da far paura. Troppo molli i rossoneri affondati ieri dagli svizzeri, troppo anonima la prova di molti senatori. È difficile rubricare al capitolo sfortuna i pali e le parate del portiere elvetico Leoni, se si pensa ai miracoli di Storari che, anche ieri sera, come domenica col Bari, hanno evitato il tracollo. E allora nelle orecchie restano i fischi di San Siro e l'eco delle prese di posizione societarie sul futuro del club. Il Milan non è in vendita, recita l'ennesimo comunicato firmato Fininvest, ma che le maglie rossonere facciano parecchio gola al colonnello Gheddafi non è un mistero, e che prima o poi l'affare possa andare in porto sembra solo questione di tempo e dettagli. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Il commento di Dario Ceccarelli. Povero Milan, va tutto storto. Sbeffeggiato dal Bayern in campionato, affondato a colpi di tacco dal formidabile Zurigo in Champions. E poi ci si stupisce che davanti a spettacoli del genere i suoi tifosi se ne stiano a casa. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, non si può mandare via Ancelotti per Leonardo, costruire la squadra su Ronaldinho e non spendere un euro per ricostruirla. Il Milan vive di ricordi, vecchie glorie che si guardano allo specchio mentre gli avversari li saltano come birilli. Come soffro, dice Berlusconi, ma lui è il capo, questo Milan è nato dalle sue indicazioni. Se per vari motivi non lo interessa più, che lo dica, chiaramente, e agisca di conseguenza senza prendere in giro i tifosi. 13, 27 minuti, 49 secondi, il mondo e l'Italia andrebbe così secondo Radio 24. Le prossime notizie alle 14, vi saluta qui Daniele Biacchessi, alla console Carmelo Lauricella. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.